la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Non avere niente e avere tutto, perché si ha se stessi. Questo cantava Nina Simone, questo potrebbe cantare la prima ragazza che incontrate ad Haiti. Tra queste donne e questi uomini si svolge la storia di Fiammetta Cappellini, una delle tante italiane in giro per il mondo. Fiammetta vive ad Haiti, lavora per una ONG ed è sposata ad un haitiano. La sua vita è ricca, c'è anche un bimbo con loro, tutto va bene, fino a che una mattina la terra trema e ad Haiti si scatena l'inferno. Quella sarà la sua prima volta. La sua storia rimbalzerà su tutti i giornali italiani, qui al TG5. Una mamma italiana, una volontaria di un'associazione non governativa, è rientrata dall'inferno di Port-au-Prince e quindi ascoltate il suo racconto con Gabriella Giovanetti. Mi sembra di non vederlo da un anno. Ciao. Tre lunghi mesi che per Fiammetta Cappellini, responsabile ad Haiti dell'organizzazione non governativa AVSI, sembravano non passare mai. Distante dal piccolo Alessandro, 2 anni, che lei ha mandato in Italia dai nonni per proteggerlo, per non fargli vivere gli orrori e le difficoltà di un paese ferito a morte dal sisma del 12 gennaio scorso. È per lui il primo abbraccio appena scesa dal volo da Port-au-Prince. Non l'avrei fatto per niente al mondo se non fosse stato necessario. E non lo facciamo neanche più, vero? La mamma italiana che lavora ad Haiti. Un nome bellissimo per Fiammetta, che di cose da raccontare ne ha tante, tantissime. Io mi trovo a Port-au-Prince, la capitale di Haiti, lavoro qui da 8 anni come responsabile per la fondazione AVSI dei progetti di cooperazione allo sviluppo. Tecnicamente il mio ruolo è quello di rappresentante legale di AVSI nel paese. Lei, anche quando ci fu il violento terremoto che colpì Haiti, era ad Haiti, perché appunto ha detto che è 8 anni che sta lavorando lì. Guardi, sono stati, credo, i momenti più drammatici della vita di ciascuna delle persone che si trovava ad Haiti in quel momento. Io ero in ufficio al momento del terremoto, ero ancora orario lavorativo, ero con i miei colleghi, amici, con il mio bambino. E guardi, veramente è stato un cataclisma, una catastrofe. Ci siamo resi conto immediatamente della gravità della situazione, ma non di quanto grave realmente fosse stato. Si capiva che era un terremoto gravissimo, ma un livello di distruzione e un numero di vittime come quelle che ci sono state non avremmo potuto immaginarlo. E adesso, a distanza di 4 anni, infatti, ancora il paese porta delle gravi conseguenze di questa catastrofe. Ecco, quali sono le emergenze in questo momento che il paese sta vivendo? Il terremoto, oltre a causare un grandissimo numero di vittime, oltre 200.000, ha anche causato la distruzione in alcune zone della città, della capitale, di oltre il 95% delle abitazioni. Quindi un grave problema dopo il terremoto è stato quello degli sfollati, dei profughi senza casa. Immediatamente dopo il terremoto erano oltre 1,5 milioni, purtroppo, anche se molto è stato fatto, attualmente a 4 anni restano ancora oltre 170.000 persone che non hanno trovato una soluzione abitativa, e avere 170.000 persone che vivono in mezzo alla strada in una metropoli è un problema molto grave per loro, per la città, per loro, perché vivono una situazione di non dignitosa, veramente ai limiti del sostenibile, e per la città perché è impossibile tornare alla normalità in questa situazione. Oltre a questo, Haiti era un paese poverissimo prima del terremoto e lo è ancora. Questa tragedia non ha fatto che aggravare in modo importante la situazione del paese. Ancora oggi la maggior parte dei problemi di Haiti sono legati a questo, a una gravissima povertà. Oltre il 70% della popolazione a livello del nazionale del paese vive sotto la soglia di povertà, quindi con meno di $2 al giorno. il paese stenta a svilupparsi, mancano infrastrutture, mancano delle riforme nei settori chiave dello sviluppo e dei servizi sociali. Per questo la vita ad Haiti è davvero da tutti i punti di vista molto difficile. Ad esempio, dopo il terremoto, in questa situazione precaria, per oltre 1,5 milioni di persone, l'assenza quasi totale di sistemi di distribuzione dell'acqua potabile è stata una delle cause della diffusione dell'epidemia del colera. A distanza di oltre 3 anni dallo scoppio dell'epidemia ancora non è stata contenuta, ci sono ancora 30-40 morti ogni mese per l'epidemia e migliaia di contagiati. Ecco, sono questi i problemi di Haiti oggi. Lei, cioè, rispetto a questo che ha appena raccontato, che comunque è un quadro molto molto faticoso, no? Perché ha deciso? Perché io mi ricordo perfettamente di lei nei giorni del terremoto, perché fu una delle prime a comunicare agli italiani che cosa stava succedendo, tornò in Italia, mi ricordo, e poi ritornò ad Haiti appena riuscì a rientrare. E c'era stato proprio anche, insomma, tra le persone che, senza conoscerla, si chiedevano, no, perché questa ragazza sta tornando lì col bambino, perché non resta in Italia, ecco, perché lei è ritornata ad Haiti? Ma guardi, io immediatamente dopo il terremoto, appunto, nelle ore subito dopo non ci siamo resi conto subito di quanto grave fosse la situazione. Quando a distanza di 24-48 ore è stato chiaro della gravità, della portata della catastrofe, a me è stato chiaro che il bambino qui con me non poteva restare, non era giusto chiederglielo, ma anche non c'erano delle condizioni di sicurezza perché un bambino potesse restare, non c'era acqua potabile, non si poteva rientrare nelle nostre case, quindi il bambino, come la maggior parte degli italiani con famiglia, è rientrato con l'evacuazione organizzata dalla Farnesina. Era il momento in cui dovevano restare ad Haiti le persone che potevano immediatamente attivarsi e entrare nelle attività di risposta all'emergenza, quindi la scelta, oltre che essere molto personale, individuale, a seconda veramente di come uno anche moralmente e psicologicamente si sentiva di fronte a tutto quello che ogni giorno dovevamo vedere, la scelta oltre che a questo per ciascuno di noi è stata dettata anche dal tipo di lavoro che ciascuno faceva. Chi lavorava in settori, nella cooperazione, ma in settori più amministrativi, organizzativi, non aveva in realtà un motivo per restare e sottoporsi a tutto questo stress, che non sarebbe stato immediatamente utile. La scelta per me è stata dettata proprio dalla coscienza che i nostri progetti lavoravano nelle zone che erano maggiormente colpite dal terremoto e noi avevamo un contatto diretto con la popolazione, e quello non era un momento in cui potessimo dire a questa gente che accompagnavamo da anni: ora succede questo e noi ce ne andiamo perché è troppo difficile restare qua. Veramente, a livello proprio umano, io non penso che questa fosse una scelta che si potesse fare, e quindi, nonostante sia stato realmente difficile, molto provante, la scelta è stata quella di restare. Io ho poi avuto una sostituzione, grazie alla disponibilità dei miei colleghi in Italia, per la prima pausa oltre 3 mesi dal terremoto. Sono stati 3 mesi di lavoro durissimo. Ma davvero, dopo anni che uno vive qua, questa è la nostra gente, queste sono le comunità in cui noi ogni giorno operiamo, come si fa a dire io adesso vado via? Secondo me non si può, se appena ci sono le condizioni per restare, è quello che uno deve fare. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Haiti è uno dei posti più poveri al mondo. Il terremoto ha bruciato quasi tutte le possibilità di recupero. Nonostante questo, la gente si sta lentamente rialzando, ma la fatica è moltissima. E dopo la gran corazzata di giornalisti e cantanti, ora non restano che un manipolo di persone, tra cui Fiammetta, a spalare la parte peggiore di questa storia. La prima volta. Lavez-moi bien, fous-moi bien. Yes. La voce al megafono chiama la gente delle baracche di Haiti perché arrivino a lavarsi le mani, un gesto piccolo per contrastare la diffusione del colera che sta uccidendo ancora molte persone. Fiammetta Cappellini, la chiamavano nei giorni del terremoto la mamma di Port-au-Prince, così raccontò il TG1. All'aeroporto di Haiti arrivano gli aiuti per i terremotati e vanno e vengono gli operatori umanitari. Oggi Fiammetta è venuta a prendere due medici italiani. Pochi giorni fa a partire è stato suo figlio Alessandro. 4 giorni dopo il terremoto, Fiammetta ha dovuto scegliere, partire con il figlio o rimanere ad Haiti. Alessandro è andato in Italia dai nonni e lei è rimasta a piangere sulla pista. Non so bene dove troviamo le energie per andare avanti in questo momento. Abbiamo visto i nostri amici morire, abbiamo visto in un attimo sparire delle persone che non vedremo mai più. E le persone con cui lavoravamo, con cui credevamo di costruire qualche cosa insieme, è molto difficile. La sofferenza è enorme. Anche i giorni subito successivi al sisma, vedere questi cadaveri abbandonati in questo modo e pensare agli amici che noi avevamo perso, questo è durissimo. Noi abbiamo una rete di protezione, abbiamo degli amici, ci possiamo permettere di alloggiare da un'altra parte, possiamo comprarci da mangiare, ci possiamo lavare. Questa gente non ha nulla, non ha assolutamente nulla. Lei, italiana, sposata a un haitiano, giovane e sorridente, si trova in una storia gigantesca che cambierà, come dirà lei, radicalmente la sua vita, il suo modo di pensare, di capire gli altri. Il giorno del terremoto ad Haiti, Fiammetta comunicherà per prima la notizia in Italia. Sarà anche l'ultima ad andarsene. Io facevo delle... mi rendevo disponibile come volontaria per delle brevi missioni con alcune istituzioni legate alla Chiesa Cattolica e con il gruppo missionario della mia parrocchia, però avevo un altro lavoro principale, questo diciamo era quello che riservavo nel mio tempo libero e nelle vacanze. In una di queste brevi missioni, generalmente della durata di un mese all'anno, sono venuta ad Haiti, ho conosciuto questo paese e ho avuto immediatamente voglia di tornare, proprio per l'impressione che sia qua che ogni singolo momento della nostra giornata e della nostra vita possa essere utile, possa fare la differenza. E così tornando ho conosciuto quello che è attualmente mio marito, che è uno dei rari haitiani con un titolo di studio alto che ha deciso di non lasciare il paese. Perché uno dei problemi di Haiti è che è il primo paese al mondo per la cosiddetta fuga dei cervelli, tutte le persone che hanno un titolo di studio, oltre l'80% dei diplomati e dei laureati lascia il paese. E quando ho conosciuto mio marito lui mi ha detto subito: io ho scelto di vivere qui e qui è dove io resterò, quindi tieni presente questo. Io stavo giusto chiedendomi se nella mia vita la cooperazione, il supporto allo sviluppo dovesse restare una cosa del tempo libero o potesse diventare la prima attività, e così le due cose si sono incontrate bene. E quando ci siamo sposati, ci siamo trasferiti qua, io ho fatto della cooperazione il mio lavoro, la mia attività principale. Senta, se dovesse, diciamo, tracciare in qualche modo una sorta di tirare un po' le somme, no? Rispetto all'esperienza, come ha detto lei, fortemente stressante, devo sicuramente immaginare di grandissimo dolore che ha provato nell'essere appunto durante i giorni del terremoto a fianco con la gente con cui viveva anche prima. Guardi, è difficile tracciare un bilancio di un periodo e di anni così difficili. Sicuramente se avessi potuto scegliere non l'avrei scelto, ma non l'avrebbe scelto nessuno di vivere un'esperienza come questa. Quello che posso dirle è che siamo cambiati tutti, nessuno è la stessa persona che era prima di passare attraverso tutto questo. Se tornassi indietro non farei delle scelte differenti da quelle che ho fatto. La mia vita ne è stata completamente, radicalmente cambiata, probabilmente anche il mio modo di essere, la persona che sono, ma io penso che sia stato importante quello che abbiamo avuto la possibilità di fare per questo paese, anche se sinceramente quello che abbiamo visto e che vediamo ogni giorno è sempre tanta sofferenza, tanta difficoltà, tanta ingiustizia di vedere una popolazione po' condannata a vivere in questo modo. Ci sono sicuramente tanti episodi positivi e tantissimi segni di speranza, ma nel quotidiano è dura, è difficile. Però la vita di questa gente è questa, nella sua verità è questa, e io penso che sia una grazia, un grande dono quello di poter accompagnare e vivere accanto di questa popolazione, anche nella difficoltà. Nella modestia di una persona come Fiammetta Cappellini non rientra la conta del benefatto, ma solo quello che ancora c'è da fare. Eppure, dopo il sisma, Fiammetta e il suo gruppo sono riusciti a costruire 16 strutture, tra queste 9 scuole. 40.000 persone hanno ricevuto aiuti. Fiammetta è riuscita a costruire un centro educativo in un quartiere formato da baracche che dal mare si arrampicano sulle colline. Quello che serve sono luoghi dove far stare i bambini perché i genitori possano lavorare e far ripartire il paese. Quella di oggi è la storia di una ragazza arrivata dal volontariato e finita nella cooperazione, nel posto peggiore, nel momento peggiore. La prima volta termina qui. Ci potete riascoltare in podcast, potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. La prossima settimana con noi ci sarà Sebastiao Salgado, che a Venezia ha inaugurato una mostra stupenda. Ciao a tutti, buona domenica da Cristina Carpinelli. You don't lose yours.